Io dico scherzando che parlerò del titolo, della copertina di questo libro, non è uno scherzo, è la verità, perché io sono stato felice di questo titolo. Prima cosa perché è appropriato, spiega che cosa serve questo libro. La dodicesima disposizione transitoria e finale è quella che vieta la ricostituzione del partito fascista. Questo libro è uno strumento che ci dovrebbe aiutare a evitare questo rischio. Semplice, due parole, dodicesima disposizione. Ma come tutto quello che riguarda la Costituzione, comprese le disposizioni finali, c'è un tesoro di riflessioni da fare su quello che troviamo scritto. Sono poche parole queste, ma aprono un dibattito che non si è concluso, che continua anche ai giorni d'oggi. E la prima domanda è perché è stato necessario fare le disposizioni finali e in particolare la dodicesima. Le disposizioni transitorie e finali servivano perché si viveva un periodo di transizione, si voleva cambiare tutto, ma non si può cambiare tutto perché lo Stato non può rimanere senza leggi, senza regole, senza gerarchie, e quindi avevamo la necessità, avevano i nostri padri, la necessità di mantenere in piedi la struttura dello Stato che era fascista, e contemporaneamente di impedire che il fascismo si riformasse. Un problemino non semplicissimo. Ma la dodicesima disposizione è quella più difficile per tanti motivi. La prima è perché non è transitoria, perché il secondo comma è transitorio, quello che dice che per 5 anni i gerarchi fascisti non sono eleggibili, non sono neanche elettori, ma la prima parte non è transitoria, divieta la ricostituzione del partito fascista per sempre. Quindi già lì c'è un primo problema. Si è voluto forse mettere insieme due aspetti dello stesso tema, che era appunto l'impedire la rinascita del partito fascista. Lo si capisce meglio se si pensa che in realtà il testo della dodicesima disposizione era nato come secondo comma dell'articolo 49, quindi era previsto inizialmente nel testo dei 139 articoli. Un altro problema ce lo dà l'interpretazione di queste poche parole. C'è il divieto di organizzazione in qualsiasi forma. Che vuol dire? La Consulta alla Corte Costituzionale ci ha speso pagine e pagine per cercare di chiarire che cosa vuol dire, ma perfino che cosa vuol dire fascista. Il dibattito in Costituente su questo tema non è stato uno scherzo. Vi faccio alcuni nomi che sono intervenuti su questo articolo: Lelio Basso, Concetto Marchesi, Togliatti, La Pira, Dossetti. Cioè, ci rendiamo conto che questa, che sarebbe un accessorio, una disposizione finale, in realtà è stato un punto su cui si è discusso ai massimi livelli di quello che era la Costituente. E si è arrivati a una soluzione che era quella di considerare il fascismo non tanto un'ideologia quanto un fenomeno storicamente identificato e che era in qualche modo definibile in maniera oggettiva. Togliatti propose di considerare la parola fascismo non una ideologia, ma quello che era successo in Italia dal 19 al 43, mi pare, se ricordo bene le date. Perché? Ma perché se si fosse espressa una valutazione di tipo ideologico, la stessa valutazione sarebbe stata possibile per altre forme di ideologia. E il rischio, nel momento in cui nasceva la Guerra Fredda, e la divisione del mondo in due parti, Togliatti intelligentemente aveva individuato il rischio che lo stesso divieto che riguardava il fascismo venisse applicato al comunismo. Quindi rendetevi conto di che cosa c'è dietro questa disposizione. E quanto questo, voglio dire, comporta, perché in realtà c'è una contraddizione, almeno apparente, fra la dodicesima disposizione e alcuni articoli della Costituzione. Il primo comma vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ma l'articolo 18 dice che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli. Quindi non è vietato fare un partito, qualunque partito, non c'è scritto quali partiti sono autorizzati e quali no, però è vietato creare il partito fascista. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, articolo 49, stessa apparente contraddizione. L'articolo 48, sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età, però in deroga all'articolo 48 sono stabilite per leggi, però non oltre un quinquennio, eccetera, eccetera, le limitazioni temporanee. Cioè, è una contraddizione, ma la nostra Costituzione, se la prendiamo da questo punto di vista, è piena di contraddizioni. Perché non sono contraddizioni, sono enunciazioni di principi ai quali però si dà la facoltà alla politica, sui quali si dà la facoltà alla politica di intervenire. Io porto sempre un esempio che è il più terra terra di tutti, l'articolo 41 che dice che l'iniziativa privata è libera, quindi chiunque può creare un'azienda, però poi si spiega quali sono i limiti. Non può essere fatta contro la dignità dei lavoratori, non può danneggiare la salute dei lavoratori, eccetera, eccetera. Si enuncia un principio, si pongono dei limiti. In questo spazio che c'è fra i divieti e le autorizzazioni si muove la politica. E questo è estremamente importante, perché appunto vietare un'ideologia sarebbe stato un vulnus alla libertà di opinione. E si è cercato di evitarlo mantenendo però la condanna definitiva e irrevocabile del fascismo. La legge Scelba poi è stata confermata da tantissime sentenze della Corte Costituzionale nel suo tentativo di allargare il senso del divieto, non limitandolo alla costituzione del partito, ma anche alle fasi preliminari della costituzione di un partito, quindi all'esaltazione e alla predisposizione. La domanda che ci dobbiamo fare, io credo, è: c'è ancora il rischio? Cioè abbiamo ancora bisogno della dodicesima disposizione? Sono passati tanti anni, ne abbiamo ancora bisogno. Io credo che dobbiamo chiederci se ci sono delle analogie, e qui forse scandalizzerò qualcuno, se abbiamo però mi scuserete, se ci sono delle analogie fra appunto gli aspetti organizzativi non indifferenti del fascismo e quello che succede in questo momento nel nostro paese. La tessera del Partito Nazionale Fascista era essenziale per trovare certi posti di lavoro. Senza tessera non si lavorava. Il giuramento di fedeltà al Partito Nazionale Fascista era condizione per insegnare all'università. Ci ricordiamo tutti i 13 professori che si rifiutarono di firmare. Siamo sicuri che non ci sia un problema anche nel nostro paese di nepotismo partitico, cioè chi prende il potere... anche se nel nostro paese non vige lo spoil system, si trascina dietro i suoi, e quindi abbiamo una deformazione della pubblica amministrazione in questo senso. Ma questo forse è una cosa tirata un po' per i capelli. Ma qual era la sede della decisione politica, del dibattito politico durante il fascismo? Il Gran Consiglio del Partito Nazionale Fascista. Non il Parlamento. Non si discutevano le leggi in Parlamento, non si proponevano le candidature all'elezione, che poi non c'era, era una designazione, non si individuava il capo del governo e primo ministro in maniera democratica. I ministri erano designati dal partito. Noi pensiamo che tutte queste funzioni in questo momento si svolgano nel nostro Parlamento. Io ho l'impressione che si svolgano fuori, che i segretari dei partiti si incontrino e sistemino le cose, tenendo presente che il numero degli elettori che votano e che quindi i partiti possono pretendere di rappresentare è in calo vertiginoso, abbiamo visto le astensioni negli ultimi turni elettorali. Eppure non è il Parlamento la sede del dibattito. Apro una parentesi. Noi siamo impegnati, noi, CDC, insieme ANPI e altre organizzazioni, siamo impegnati in questo momento a raccogliere firme per una proposta di legge di iniziativa popolare costituzionale per cercare di modificare quel famoso 116 terzo comma che permetterebbe, speriamo di no, l'autonomia differenziata regionale. Il nostro problema è spiegare alle persone quello che sta succedendo, perché in realtà non lo sa quasi nessuno. E lo scopo della nostra raccolta di firme è riportare in Parlamento, quindi alla luce del sole, il dibattito su questo argomento. Ecco, a quei tempi, diciamo così, il dibattito si svolgeva nella sede del Gran Consiglio. Ma la legge elettorale, ne abbiamo parlato tante volte, quindi sappiamo che cosa significa il Rosatellum, cioè l'impossibilità di scegliere da chi farsi rappresentare in Parlamento, che ricorda certe leggi elettorali dell'epoca fascista, i poteri del primo ministro, che erano assoluti e che sono tanti anche ora, pensiamo ai decreti che dovrebbero avere la caratteristica dell'urgenza e della necessità e che invece sono diventati un modo quasi banale di legiferare. Si fa un decreto, poi si porta in Parlamento per la convalida e si pone la questione di fiducia, il che vuol dire che chi sceglie è il capo del governo. Non parlo a livello regionale perché la situazione è quasi peggiore. La nostra legge comunale che prevede l'elezione del sindaco a suffragio universale dandogli tutti i poteri e che toglie alla sede assembleare del Consiglio i suoi poteri. Ma continuiamo, abbiamo vissuto in questi giorni la vicenda del Michelangelo, si ritorna allo squadrismo, anche questo è un altro sintomo, dobbiamo considerarlo un'analogia con le fasi iniziali del ventennio. Non parlo del problema della guerra perché l'articolo 11 ce lo siamo dimenticati, ormai siamo praticamente in guerra anche noi. Allora si scivola progressivamente da alcuni anni, dimenticando l'applicazione della Costituzione e violandola sistematicamente, si sta scivolando verso una nuova forma di autoritarismo, un po' meno folcloristica di quello che era il fascismo, ma non meno pericolosa. E ricordare, e questo libro ci consente di ricordare, ci aiuta a ricordare, serve a non ripetere gli errori, come diceva Aldo. Perché dobbiamo decidere, e siamo in tempo, forse, forse sì, non siamo sicuri, se siamo cittadini o sudditi. C'è qui Domenico Gallo in sala che ha scritto un libro bellissimo su questo tema e che giustamente distingue fra i sudditi, che sono quelli che obbediscono, e i cittadini, che sono quelli che rivendicano la propria sovranità come espressa nell'articolo 1 della Costituzione. Io credo che l'ANPI abbia il compito, come unico erede della lotta antifascista, ahimè, purtroppo noi siamo già di una generazione che non l'ha vissuta questa fase. Io ho la stessa età della Costituzione, quindi ormai la guerra, la lotta vera era finita. Ecco, di richiamare i valori della cultura pacifista, solidale, legalitaria, che sono scritti nella Costituzione, che vanno interpretati articolo per articolo, ogni volta che ci troviamo di fronte a una decisione, spesso, quasi sempre, nella Costituzione c'è la soluzione, perché è una struttura di enorme coerenza e di grande equilibrio, che bisogna fare attenzione a toccare, perché tutti i tentativi e tutte le sperimentazioni che sono state fatte in questi anni di modifica della Costituzione, quasi tutte, diciamo così, si sono rivelate un disastro. Penso alla riforma del titolo V, ma non solo, penso all'articolo 81, penso a tante di queste modifiche che non sono state certo migliorative. Eppure è giusto che la Costituzione sia modificabile, però forse quello che ci manca è la statura dei costituenti che non abbiamo e che, se guardandoci intorno, troviamo con grande difficoltà. Allora, io chiudo qui. La 12ª disposizione transitoria e finale serviva? Sì, serviva. Ci serve ancora? E come se ci serve ancora? E dobbiamo presentarla e farla studiare, qualcuno diceva a scuola ai ragazzi. Ecco, spieghiamogli, partiamo da qui, spieghiamogli perché c'è stato bisogno della 12ª disposizione. Grazie.